Stessa proposta, lo stesso invito di sempre e per tutti. Ma ora il duello è aperto con lui, l'amo, atteso da tutto il creato. Siamo dunque, la proposta era stata fatta che i fedeli partecipassero a una breve riflessione. Da dove cominciamo? Ognuno può dire. Quali sono le parole che hanno colpito? Quali sono le idee che ci accarezzano di più in questo brano del Vangelo? Quelle che ci inquietano meglio ancora? Il suo stile di vita. Nei paragrafi appena precedenti del Vangelo di Marco, Giovanni Battista predicava: cambiate vita, fatevi battezzare e i vostri peccati saranno perdonati. Gesù va e si fa battezzare. Subito dopo troviamo il brano di oggi nel quale, come dicevo, mi colpisce la parte in cui lo spirito, cioè la parte migliore dell'uomo, quella dove ha sede la coscienza e l'amore, sospinge Gesù, lo induce, quasi lo obbliga ad andare nel deserto per purificarsi, per decidere cosa fare della sua vita. Quindi il luogo del cambiamento è il deserto, che è sinonimo di luogo di solitudine, del silenzio. Nel deserto si è soli, non ci si può aggrappare a nessuno e possiamo contare solo sulle nostre forze. Bene. Quando la nostra vita quando la nostra vita di relazione scricchiola, diventa problematica in famiglia, sul lavoro, nella comunità, anche noi sentiamo il bisogno, siamo sospinti ad andare nel deserto per meditare, per capire, per trovare nuove motivazioni. Allora mi chiedo: dov'è questo luogo affascinante che è in grado di cambiarmi, di farmi riscoprire i veri valori? E la risposta che mi do è che sta nel cuore di ognuno di noi, perché è solo lì che possiamo trovare la risorsa capace di farci riscoprire le emozioni e di prendere decisioni riguardo al proprio stile di vita. In altre parole, avvertire la presenza di Dio e incontrarlo. Magari stringiamo un momentino i tempi. A volte basta anche una frase sola, Questo andare di Gesù nel deserto come una specie di tentazione, anche quella di fuggire, forse come se lui fosse ad un bivio, che probabilmente lo era nella sua vita, e doveva decidere cosa fare, e quindi questo fuggire per tentare di non prendere decisioni. Ma nel deserto le tentazioni gli hanno fatto capire probabilmente qual era la sua strada, che era quella della fedeltà, perché, come dicevi anche tu all'inizio, quella di essere, tu hai detto, cittadini attivi, ma comunque di preoccuparsi degli altri. C'è ancora qualche coraggioso? Ma io, pensando alla parola convertitevi, conversione, ho sentito molto forte in questi giorni l'appello che Papa Francesco ha fatto ai mafiosi, dicendo appunto, invitandoli alla conversione, dicendo in un modo molto forte che non si può dirsi cristiani e fare ciò che fanno. Quindi in questo momento storico così particolare in cui sembra che ritornino in qualche modo le guerre di religione, l'ISIS, mi sembra che la parola conversione può avere anche questo significato, cioè fra i tanti ovviamente, non nascondiamoci dietro l'essere cristiani e quindi non utilizziamo in qualche modo, non strumentalizziamo il Vangelo ai nostri fini. Nel nostro piccolo sicuramente noi non ci sentiamo dei mafiosi, però magari qualche volta la logica della centrale, del potere, dello strumentalizzare il Vangelo al nostro stile di vita invece che fare il contrario può essere che ci tocchi, insomma. Quindi la fatica a cui si accennava all'inizio, accennavano le parole di Don Piero, la fatica è quella proprio di cercare sempre cosa significa dentro ciascuno di noi questa conversione, e credo che possa avere anche significati diversi, sempre in riferimento al Vangelo, però significati diversi per ciascuna persona nel momento della propria vita e anche per le relazioni e le situazioni nelle quali ciascuno si trova. Il tempo è compiuto, convertitevi e credete al Vangelo. Io penso che con Gesù si è compiuta la comprensione delle scritture. Convertitevi è un invito a cambiare mentalità e avvicinarci, conformarci al Vangelo. A me ha colpito l'espressione del Vangelo di Dio, perché Gesù che predicando il Vangelo non il suo, comunque io, ma rimette tutto comunque nelle mani del Padre. Quindi questo Vangelo di Dio è comunque curioso, questa specificazione, secondo me, che un po' si ricollega al discorso della Signora, cioè proprio di rimettere tutto a lui. Qui ci sono due imperativi, convertitevi e credete, sono cose che o vengono dall'interno o non si ottengono per imposizione. Il fatto che Gesù lo pretenda, senza dare tutte le spiegazioni che lui stesso non ha avuto quando si è trovato nei guai, indica proprio che l'accesso alla fede è un accesso per autorità, di uno che ti manda sì l'arcobaleno, che promette sì che non ci sarà più il diluvio universale, però non si impegna a impedire che ci siano gli tsunami, non si impegna a garantire che ci sia quella gioia, quella felicità che ha portato. Ecco il senso della fatica. Fatica di credere, che è nello stesso tempo gioia di credere, se uno si affida, si crede che in ultima analisi la parola definitiva è questa. Convertiti e credi, ti piglierò io, ti porterò con ali d'aquila, eccetera, eccetera. Ma tu hai l'impressione di cadere, come i suoi apostoli quando stavano sulla barca, insomma, salvaci e andiamo sotto, cioè, uomini di poca fede. Cioè, li rimprovera perché non hanno abbastanza fede per capire che si può star su anche se si va giù. A me c'è una parola che sta a cuore di tutto il Vangelo ed è una parolina che risponde a stare, è stato là. La tentazione forse è legata proprio a questo invito, stare che viene prima del fare. Noi uomini e donne postmoderni, è difficile stare, rimanere lì, magari stare senza essere. Pensate un po', qualcuno senza emergere sembra perso, sentire poco valore. Mentre milioni di persone, di uomini e donne, stanno misteriosamente presenti e solo gli angeli, questa simbolica raffigurazione della protezione, anche le fiere non fanno male. Potrebbero dire altre cose, ma ne sono state dette a sufficienza. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Buona volontà. Noi ti rodiamo, ti benediciamo.